I conti della belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, questo sabato 9 luglio alle 10:07 primi 25 secondi dagli studi di Milano di Radio 24, l'intera compagnia finalmente tornata al completo dei conti della belva. Vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un buon weekend da Oscar Giannino, Renato Cifarelli, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Mario Seminerio. La notizia è che Renato Cifarelli è ancora vivo dopo i concerti del boss, che non è mancato neanche anch'io, in studio. Anche Carlo Alberto, questo denunciamo la nostra età, però il boss non si discute. Insomma, detto questo, allora, rapidissimamente, come sempre, sapete che all'inizio trasmissione vi preghiamo, segnalandovi i temi di cui ci occupiamo oggi, di intervenire. E intervenire chiamandoci all'800 24 0024 per le opinioni, lo sapete, sia WhatsApp che gli SMS normali al 349 238 5666. E detto questo, oggi soprattutto la domanda è una: ci siamo? Volete voi, non sposarvi, non serve la formula, no, volete voi che lo Stato torni nelle banche, nel capitale delle banche, perché è l'unica cosa da fare, come la posizione ufficiale oramai, su cui c'è la trattativa aperta a Bruxelles, del governo italiano, della Banca d'Italia, dell'ABI, degli imprenditori italiani, tutti uniti nel dire Stato, Stato, Stato, Stato. Ecco, siete convinti che non ci sia niente di meglio da fare, perché le regole esistenti sono regole, quelle venute in Europa dopo i confusi interventi nazionali, ognuno a modo suo, fino al 2013, queste regole europee siano da buttare perché non siano adeguate all'Italia? E soprattutto, volete cominciare da Monte dei Paschi di Siena, una banca nella quale e nelle cui condizioni, come sanno tutti, non c'entra niente la politica, lo Stato, eccetera, non c'entra niente, è fallita per il mercato, non è fallita comunque tecnicamente, ma tutti i suoi malesseri dipendono dall'essere stata troppo mercatista, troppo liberista, non è che ha mai fatto riferimento a un partito politico, no, è ecco, bisogna che lo Stato la ricapitalizzi. Questa la domanda, siate dipendenti, clienti o no di Montepaschi, ma naturalmente se lo siete a maggior ragione, le due domande che vi facciamo sono queste. Naturalmente non ci occuperemo solo di questo, ma il primo blocco della trasmissione sarà soprattutto su questo, con ospiti di Siena, ex sindaci. Avremo con noi il vice direttore generale dell'ABI, dell'Associazione Bancaria Italiana. Ieri l'ABI è stata un'occasione di incontro in cui appunto oltre che il suo presidente Patuelli, il governatore della Banca d'Italia Visco, il ministro Padova, insomma tutti hanno fatto quadrato intorno a questa che è la nuova posizione istituzionale sulle regole bancarie, portata a un complesso negoziato in Europa rispetto al quale ieri il Fondo Monetario si è detto favorevole, il Consiglio Europeo attraverso il presidente dell'Ecofin di turno non troppo, la BCE ci dà invece una forte mano con interventi ripetuti in questi giorni di diversi suoi esponenti, anche il vicepresidente Victor Constanzio. Allora, oltre a questo, naturalmente, come sapete, un punto della settimana. Io anzi comincerei proprio, se Mario è d'accordo, sigletta anzitempo della nostra rubrica consueta. A che punto è la crisi? Sto vivendo una crisi c'è sempre ogni volta. Allora, Mario, sì. Questa settimana, oltre a questo argomento di cui ci occuperemo tra poco, cosa ci ha proposto? Ma ha colpito moltissimo questo dato dell'indice dei direttori acquisti delle imprese al dettaglio, di commercio al dettaglio, elaborato da Markit. Praticamente l'Italia è al minimo da 31 mesi in questo indice. Il valore dell'indice è poco sopra 40, ricordiamo che valori inferiori a 50 indicano contrazione e quanto più sono inferiori a 50, tanto più la contrazione è feroce. Se ci confrontiamo con il 51,6 della Germania, che è il minimo da 2 mesi, ma il 51 della Francia, che è al massimo da 8 mesi, è inquietante. Ah, sì. È veramente inquietante. Questo è un tema sul quale io batto spesso da molto tempo, che prima o poi dovremo, diciamo, riprendere, cioè la discrasia che c'è tra macro e micro. Perché mentre questa settimana ho visto dei titoli di giornale che mi hanno fatto sorridere, no? In seguito alle valutazioni Istat, gli italiani tornano a mangiare la carne, che c'era questa sorta di ritratto dickensiano. Ora, voi mangiate pure la carne, diciamo, un problema vostro, bianca, rossa, un problema vostro. Stiamo parlando di essere vegani o meno. No, esatto, non è quello il punto. Sembra che, diciamo, al termine di un enorme evento bellico, gli italiani escono, mettono il capino fuori dai bunker e ricominciano a mangiare la carne. Poi in realtà noi vediamo che, come scrive Markit nel suo rapporto, Le imprese di commercio al dettaglio sono in una condizione molto preoccupante, perché i dati mostrano che i dettaglianti avevano pianificato, o più probabilmente sperato, un mese molto migliore. Obiettivi di vendita sono stati mancati dalla maggioranza delle imprese e soprattutto c'è un ulteriore accumulo di scorte. Quindi queste scorte metteranno pressione sui dettaglianti per essere smaltite nei prossimi mesi. Ci saranno le solite vendite promozionali, eccetera, con prezzi in calo, e quindi questo sarà un problema della redditività di tutta la filiera. Probabilmente un beneficio per gli acquirenti, i quali però non se ne danno per inteso, e il problema resta ancora questo. Cioè, noi abbiamo in questo, diciamo, morticino, che è la ripresa del PIL italiano, la componente dei consumi, che è quella che fa l'andatura. Infatti l'altro giorno qualcuno, non ricordo più chi, probabilmente l'ho rimosso per carità di patria, ha detto: in Italia è tornata la ripresa, ma gli investimenti latitano. Allora io mi dico, scusate, è tornata la ripresa, gli investimenti latitano, qualcosa mi quadra. E quindi niente, insomma, il problema è questo, cioè abbiamo una condizione dei consumi che sono veramente neghittosi, svogliati, probabilmente c'è sempre una forte motivazione prudenziale. Le aziende del commercio al dettaglio, della grande distribuzione, sono costrette ad agire sulla leva dei prezzi, anche così il cavallo fatica a bere e i loro conti economici si squilibrano. Per cui questo è, mi rendo conto che in questo momento in cui stiamo parlando di massimi sistemi, di può Brexit, sembrare. Questo può sembrare un evento minore, però invece... esatto, attenzione, perché qui stiamo parlando dei dati di giugno, quando di fatto la Brexit non era in larga parte avvenuta, esatto. E non è che comunque la Brexit si manifesta qui con la gente che smette di andare a consumare, questo lo vedremo nei prossimi mesi, però già i dati di giugno indicano per questo paese un qualche rallentamento che è comune anche ad altri, no? Perché i dati manifatturieri tedeschi non fanno impazzire. E quindi bisogna stare veramente attenti e capire quale sarà il tipo di incertezze che verranno a generarsi. Ma sapete perché anche? Perché... se stiamo sull'attualità stretta, con tutto il problema delle banche italiane, se la congiuntura ancora torna a cedere, è chiaro che le banche, che già non guadagnano di loro da un ambiente di tassi negativi, hanno il rischio che alcuni dei loro crediti deteriorati, incagliati, diventino sofferenze conclamate, e tra poco ne parleremo ovviamente più estesamente, e si torna al via. Per cui... tutto si tiene in un qualche modo, però l'importante è che il problema stia nei derivati di Deutsche Bank, quindi probabilmente ne usciremo in quel modo lì. Però se posso aggiungere una cosa micro, molto micro, io lo vedo guardando i dati delle consultazioni che gli italiani stanno facendo delle offerte promozionali della grande distribuzione via internet, perché sono cresciuti terribilmente in questi anni. Ormai è diventata una prassi consultare le offerte speciali in modalità digitale prima di andare a prendere decisioni d'acquisto significative. Anche la spesa quotidiana è diventata un modello ROPO, no? Research Online and Purchase Offline. Questo è importante, specialmente nei contesti metropolitani, dove c'è arbitraggio, dove puoi scegliere di andare in un posto o l'altro a seconda delle offerte. Lo abbiamo visto proprio dalla crescita colossale, non soltanto delle consultazioni, ma proprio delle redemption, cioè delle volte in cui il volantino, la promozione digitale poi è stata portata al punto vendita. Capisci che è una modalità con cui abbiamo trasferito potere d'acquisto e potere di allocazione alle famiglie, le quali spendono molto più intelligentemente di prima. E questo ovviamente mette sotto enorme pressione la grande distribuzione. Ma da questo non si esce, perché è un dato strutturale. Certo. Però, diciamola tutta, se io vedo l'indice market di Francia e Germania che sta sopra il 50 e quello italiano che sta a 40, è chiaro che... visto che mi pare difficile, Carlo Alberto, che noi siamo diventati il paradiso, diciamo, del 2.0, 3.0 della digitalizzazione, che la gente attua e persegue questa deflazione buona sul commercio, credo che noi abbiamo problemi proprio di nostra natura, forse. Sì. E anche perché Markit ha segnalato una riduzione del cosiddetto footfall, cioè del fatto che la gente con i suoi bei piedini entra nei centri commerciali, nei mall, e questo c'è stato un calo nel mese di giugno. Te lo sto confermando, comunque l'Italia è marginalmente più avanti della Francia, allineata con la Germania su questi comportamenti, diciamo, opportunistici sistematici, e cammina meno perché decide di più a casa sua. Quindi quando va, ci va mirata, va da killer proprio, va a comprare quello che ha deciso di comprare studiando sulla casa. È un fenomeno che sta convergendo da questo punto di vista. Posso dire una cosa volante per fatto personale? Caro ascoltatore 218, io non sono vegano, non sono ferocemente carnivoro, Eccetto quando si tratta di ascoltatori particolarmente antipatici. Certo che se li mangia a colazione. Ascoltatori che dicono: adesso che Seminerio si è dichiarato vegano, capisco tante cose. No, tu non hai capito un cazzo. Per cui diciamo, te lo dico magari in questa maniera carnivora, dai. Così forse adesso la tua inferenza risulta migliorata. Dai. E andiamo oltre. Va bene. Comunque, insomma, questo per dire che questo paese che doveva puntare tutto sulla domanda interna, sui consumi, questo poi è il punto di fondo, no? La riflessione iniziale della trasmissione è questa, perché ve lo ricordo, il quadro internazionale è che non è commercio estero esattamente il drive della crescita, e tutto doveva essere concentrato su questo, eppure come vedete si tossicchia, ma vedrete che il più delle scelte affrontata e risolta in qualche maniera la questione che adesso affrontiamo, cioè quella bancaria, diventerà poi per questo governo, sullo sfondo il referendum, sui quali come vedete il governo sta cambiando un po' posizione. C'è Renzi che deve esaminare seriamente le richieste che gli vengono da un pezzo del suo partito, farlo dividerlo a pezzettini e così via, eccetera, eccetera. Ma su quello sfondo c'è poi la scelta che sarà politicamente molto orientata alla legge di stabilità, molto orientata ai redditi a sinistra, vedrete, perché questo c'è evidentemente un problema politico. Però intanto bisogna affrontare e risolvere questa settimana il problema delle banche, ed è su questo che torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Allora, eccoci qua, tornati in diretta con i compagni dei conti della Belva, con Oscar Giannino ovviamente, Renato Cifarelli, Mario Seminerio, Alberto Carnevale Maffè, e tuffiamoci nel nostro primo pezzo di trasmissione, Siena, perché Siena è la banca che viene reputata non in grado di superare senza danni gli stress test di cui siamo in attesa a fine luglio. Sapete che la BCE gli ha chiesto di rafforzare molto i suoi impegni in un calendario triennale di smaltimento dei crediti deteriorati, e su questo precipitate in borsa nel post Brexit, le banche italiane precipitate più delle altre europee, MPS più di tutti. Ecco che la questione è diventata rapidamente lo Stato nel capitale, e trattativa aperta su questo insieme al prezzo di cessione dei crediti deteriorati, che è quello che poi fa derivare quanto capitale serve aggiuntivo rispetto ai 10 miliardi di capitale attuale di Montepaschi, perché a seconda delle svalutazioni che la banca deve fare, che derivano dal prezzo di cessione rispetto a quello di libero dei crediti deteriorati, quello determina quello che si chiama in termini tecnici lo shortfall, cioè la diminuzione del capitale rispetto all'attuale da coprire a seguito delle svalutazioni, da coprire rafforzando. Mi permetto di invertire l'ordine causale: a seconda del prezzo di mercato, okay, si determina la differenza fra prezzo di mercato e prezzo di libero. Ma non c'era il fallimento del mercato? Ah, già, è vero, fermi, non che passava qua sotto. Ragazzi, non confondete le idee a chi ci ascolta. No, per carità, che guarda, abbiamo già alcune conferme che la gente è confusa, diciamo. Quindi la trattativa, Carlo Alberto, senza botteroniche, è sul prezzo a cui si può cedere. È quella la trattativa, perché il prezzo di mercato non esiste più. Ma come non esiste? Secondo la trattativa. Ah, secondo la trattativa. Io quello il mercato sto dicendo, non esiste, per quindi far capire ai nostri ascoltatori, a seconda del prezzo, perché rispetto al 40 attuale su 100 di nominale, il 20 che viene indicato come quello di mercato, la banca dice aiuto, aiuto, non, quelli sono gli speculatori americani, i cattivi che ci vogliono guadagnare. Questa è la posizione ufficiale italiana. A seconda di quanto sarà quel prezzo, che si tratti poi di Atlante 1, Atlante 2, Giasone, vedremo chi, quello determinerà di quanto capitale in più ha bisogno la banca, e a quel punto si vedrà l'aumento di capitale, se lo fa direttamente lo Stato con strumenti ibridi, entra nel capitale come c'è. Però insomma, questi sono i particolari tecnici, ma la faccenda è questa. I giornali italiani sono tutti schierati insieme all'establishment italiano, perché lo vuole la Banca d'Italia, lo vuole il governo, lo vuole l'associazione bancaria, lo vuole Confindustria. Basta guardare oggi i grandi giornali, banche, sì, di Padova e Visco, aiuti pubblici, sto leggendo il Corriere della Sera, MPS, operazioni in due tempi per mettere Siena in sicurezza, la Stampa aggiunge, io apprezzo molto come la Stampa in questi giorni sta coprendo la faccenda, aggiunge accendendo un faro sul fatto che il Tesoro oramai ragionevolmente certo di ottenere il sì di Bruxelles alla ricapitalizzazione di Stato e a un prezzo di cessione non di mercato dei crediti deteriorati, la stampa accende il faro sul futuro, perché Siena andrà aggregata oltre che ricapitalizzata dallo Stato, e dice il tesoro riapre il dossier UBI per le nozze con Montepaschi. Mentre diciamo, ma mi aspetto di vedere spuntare da un momento all'altro De Micheli, sì, ma non lo so. No, ma questi sono articoli che sono fotocopiati dal passato, perché sì, perché sono la cosa quelli. Dell'UBI è sempre sono quella. Sono sempre quelli. Allora, facciamo un rapidissimo giro da parte vostra, ma dovete essere sintetici, per dire, Mario, Roberto e Renato, come la pensate voi su questo Rubicone varcato? Mario, ma è stato varcato poi? Perché io vorrei capire se a un certo punto ci si cade dal l'Italia, seggiolone. L'Italia, ufficialmente l'Italia l'ha varcato tutta intera, questo, i poteri sono tutti d'accordo. Ah no, i poteri siano tutti d'accordo, non c'è dubbio. Io direi solo una cosa, attenzione ai risvegli. Cioè, non, mi sembra difficile, adesso cerchiamo di semplificare il concetto. Si potrebbe fare una ricapitalizzazione come quella per le banche greche, ho sentito dire. Ma avete visto come è accaduto lì? Cioè, hanno detto alle quattro banche greche: fate l'aumento di capitale, usate capitali privati. Due ce l'hanno fatta e vissero tutti felici e contenti, due no. Quelle due lì hanno dovuto convertire le obbligazioni subordinate, ma anche senior, in azioni. E poi hanno dovuto fare ricorso ai fondi dell'aiuto europeo dell'ISM. Quindi prima di trovare analogie, forse conviene un attimo fermarsi a riflettere, capire qual è stato l'esito in Grecia, no? Perché è chiaro che l'obiettivo era quello di evitare di travolgere, ad esempio, le piccole e medie imprese che avevano saldi superiori ai 100.000 euro, perché c'è anche quell'aspetto lì che sarebbe devastante, i risparmiatori privati e tutto il resto. Però, e poi scusami, Oscar, dire, a un certo punto in settimana si è creato un clima tra i commentatori surreale, tale per cui tutti praticamente, senza eccezioni rilevanti, dicevano: oddio, speriamo che le banche italiane buchino gli stress test, così possiamo mettere soldi pubblici. Ma chi ve l'ha detto? Chi ve lo ha detto? L'articolo 34,2 lettera B della BRRD non dice esattamente questo. Comunque adesso lo svilupperemo, cioè io noto veramente, si sta creando proprio una falange fantasiosa. Beh, non fantasiosa, ti assicuro, no, molto, sì, molto ti tangibile. Assicuro che per chi fa il mio mestiere tutti i giorni, altro che fantasiosa. Certamente molto, anche per chi fa il mio, nel senso che lo vedo quotidianamente sul mercato, anche se poi i prezzi vanno da tutt'altra parte. Però attenzione ai risvegli. Allora, poi dopodiché, se riusciamo a salvare una, allora, è una, non sono tutte. Sì, però è il principio. Allora, il principio, qual è, chiariamo ai nostri ascoltatori, il punto di fondo, il fuoco della trattativa italiana. Il fuoco della trattativa italiana è ciò che regge in piedi la direttiva BRRD per il rafforzamento, la risoluzione per le banche non rafforzate prima, votata nel 2013, entrata in vigore dal 2016, cioè la compartecipazione dei costi, il cosiddetto burden sharing, e questo è il principio per il quale non si potevano più fare, parlo all'imperfetto, aiuti di Stato, perché per l'Italia si possono fare aiuti di Stato senza che ci fosse un quadro nel quale nella banca devono essere chiamati a compartecipare gli azionisti, gli obbligazionisti subordinati, entro l'8% almeno delle passività da coprire, secondo una certa scala. Allora, la posizione italiana è: questa cosa non si deve fare più, non deve valere. Perché se tocchiamo gli azionisti subordinati c'è il bank run, cioè la gente corre agli sportelli, esattamente la cosa che noi dobbiamo evitare, non solo in Italia, è dovunque in Europa, è una contestazione radicale alla BRRD. E attenzione, anche sull'equity bisogna stare attenti, perché se copiamo gli investitori istituzionali fuggono tutti dall'Italia. È stato fatto l'esempio più volte, io non sono d'accordo, dell'effetto dell'intervento portoghese, fatto il Corriere della Sera, Federico Fubini, non c'entra niente secondo me, perché un conto è in una procedura, tu prima decidi un modo e poi cambi idea, allora è ovvio che gli investitori fuggono. Qui si tratta invece di una contestazione radicale, da ora e per sempre, che l'Italia mette sul tavolo, e per questa ragione si dice devono essere possibili interventi di Stato in violazione del burden sharing, perché la nostra opinione della cara Italia è che gli interventi fatti con il burden sharing siano prociclici, accrescano gli effetti negativi distolgano capitale da mercati che ne hanno invece molto bisogno, e oltretutto, sottinteso, sono ingiusti, perché prima i paesi più forti dell'Europa hanno messo i capitali pubblici per salvare le banche e adesso ce lo impediscono, dimenticandosi che noi naturalmente la direttiva l'abbiamo votata, stravotata, eccetera eccetera, ma questo per le classi dirigenti italiane non conta più niente. Come la pensa Carlo Alberto? Che non serve dare più spazio ai capitali pubblici, serve dare più tempo ai capitali privati. Se c'è una cosa che non mi è piaciuta delle autorità monetarie bancarie europee è la fretta messa a Montepaschi in un momento in cui francamente non ce n'era bisogno. Non ce n'era assolutamente bisogno, ho detto ieri sera a classi NBC, fissare questi tre anni di scadenza quando sappiamo che l'Italia ha oggettivamente un modello di copertura discutibile certamente dei propri crediti basato su garanzie reali importanti, magari non così importanti come millantavano alcuni, ma sicuramente importanti. E sappiamo anche che costringere le banche a un fire sale, cioè una vendita affrettata, deprezza il tutto. Questo è certamente prociclico e francamente per me non comprensibile, perché dentro ai preti della legge che va rispettata e che non è né incostituzionale né retroattiva, posso dirlo? Perché qua si litiga su questa faccenda qua. Dopo che ci avremo Torriero, non è né incostituzionale, perché anzi tutela il risparmio di quelli correttamente informati e di quelli che sanno scegliere le banche sane rispetto a promesse millantatrici delle banche invece gestite male. E certamente non è retroattivo, perché qualcuno mi deve citare una norma della legge italiana che prevedeva l'obbligo da parte dello Stato di salvare le banche quando invece era vero il contrario. Quindi fammi dire, per me l'errore, e devo spezzare la lancia, sennò qui siamo tutti troppo d'accordo, l'errore dell'EBA e in generale delle autorità bancarie europee è mettere fretta al mercato del credito italiano, che invece sta faticosamente formando un mercato degli NPL. E io invece devo dire che a questo punto interventi come Atlante, se fossero stati orientati solo ai crediti deteriorati e non a salvare ho capito ragazzi, però questo è quello che penso, e spero che invece da adesso in avanti la cosa vada nella corretta direzione, aiuterà a creare liquidità. Questo secondo me sblocca, quindi ripeto, tempo ai capitali privati, non spazio ai soldi pubblici. Questa storia che non c'è, le cessioni di NPL continuano in Italia, sono continuate anche in questa settimana, piccole tranche quanto volete, ma continuano. Però io il mercato c'è, il mercato lo fa, il pre-banca IFIS, altre banche fanno che però stiamo parlando di 10 centesimi sull'euro, 7 in certi dei non garantiti, 12-15, ma certamente non 40. Io questa cosa delle piccole tranche di vendita, sì, no, di NPL che vengono annunciate, sì. E soprattutto si precisa che avvengono con perdite nulle, quindi sono già coperti rispetto al prezzo di vendita. Questo di per sé può essere anche un'azione promozionale, pubblicitaria, di pubbliche relazioni da parte delle banche coinvolte. In che senso? Nel senso che loro hanno vecchie sofferenze, molto datate, che hanno coperto ad abundantiam. E quindi a un certo punto dicono, va bene, qui non perdo nulla, nel senso che non mi si abbatte il capitale, vendo, do un messaggio al mercato del tipo, guardate che io sto smaltendo regolarmente. In altri casi invece bisogna fare attenzione, perché ci potrebbero essere sofferenze di più recente formazione, quindi che sono coperte poco, non hanno garanzie, sono diciamo unsecured come si dice nel gergo tecnico, quindi hanno un valore di recupero molto basso. Se noi continuiamo a smaltire sofferenze, per carità è cosa da fare, cosa buona e giusta, smaltendo sofferenze con tanto di annuncio sulla stampa a valore segnaletico, e dopo mi rimane in portafoglio roba che praticamente ha un valore di recupero zero e che io l'ho coperta al 30-40%, forse aumentiamo la concentrazione della tossicità. Per cui io noto una certa operazione di PR in alcuni casi nell'annunciare questo. Però da parte tutto serve, diciamo. Comunque, diciamoci la verità. Nella difesa, noi che crediamo nel fatto che il burden sharing serva a garantire meglio, non peggio, il risparmio, e serva ad abbattere l'azzardo morale, che in Italia è stato fortissimo, della connivenza tra regolatori, manager bancari, prassi del credito non trasparente, credito relazionale, credito a soci amministratori non coperto da garanzie reali, patrimonio di vigilanza autofinanziato delle banche, cioè una fila di violazioni delle norme fondamentali che emergono in tutte le indagini penali aperte sulle banche finite nei problemi, in tutte e ciascuna di esse, ed è questo su cui si sta tentando di mettere una pietra sopra in Italia. Allora, noi che crediamo in questo dobbiamo ammetterlo, cari compari, non siamo riusciti a spiegarlo fino a questo momento, perché veniamo nell'opinione pubblica e nel dibattito pubblico travolti da chi dice le vostre sono fanfaluche ideologiche, perché nella realtà la svolta che serve è un'altra, e adesso dopo un minuto iniziamo a occuparci di questa svolta. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta con il compare dei conti della belva. Renato. Carlo Alberto. Mario. E Oscar Giannino, naturalmente. E ci ha raggiunto telefonicamente, gli siamo molto grati, il vice direttore generale dell'ABI, Gianfranco Torriero. Buona giornata e grazie del tempo che ci dà. Buongiorno a voi, grazie all'invito. Allora, ieri noi abbiamo iniziato commentando prima il vastissimo consenso che c'è sui media italiani su l'allineamento di posizioni che ieri all'ABI si è confermato tra il presidente dell'ABI, il governatore della Banca d'Italia, il governo e il ministro dell'economia. Abbiamo richiamato anche le posizioni venute dalla BCE e dal Fondo Monetario a favore di questa svolta, perché di svolta si tratta, cioè una trattativa aperta dall'Italia per dire bisogna che ci consentiate BRRD o meno l'intervento dello Stato, la ricapitalizzazione di istituti anche solvibili, ma che però siano nelle condizioni di dover rafforzare il capitale, perché magari in arrivo gli stress test potrebbero però poi derivarne condizioni sistemiche, e di questo secondo pilastro della trattativa che ha aperto a Bruxelles, vedremo con la Commissione su a che prezzo si cedono i crediti deteriorati tra quello di mercato basso, molto basso, come abbiamo visto, e quello invece di libero delle banche. Io le faccio una prima domanda, poi lascio ai miei compari qua in studio. Ma come il presidente dell'ABI ieri è stato molto duro, ricominciando e ripartendo dalla questione di considerare la direttiva europea incostituzionale, la domanda che facciamo noi è: voi usate questo approccio ancora più duro? Le autorità italiane sono state più morbide, sono tutte chiare, allineate, ma non usano questi toni. Perché pensate che la trattativa oramai è portata a casa, il sì della Commissione europea ci sarà ed è portata a casa, e tanto vale portarsi ulteriormente più avanti, è un aiuto alla trattativa o perché? Cioè qual è il motivo per cui essere così duri da dire l'Italia ha votato e condiviso una cosa che viola la Costituzione? Allora, innanzitutto questa riflessione parte soprattutto da una riflessione di tipo giuridico che non è solamente stata rappresentata ieri è stata sicuramente rappresentata in maniera molto più ampia, vista anche l'assemblea dell'ABI, ma anche rappresentata in alcune interviste nelle scorse settimane, nei mesi scorsi. Il passaggio fondamentale è quello della necessità sempre di fare una valutazione tra quelle che sono le normative europee, quelle che sono le regole soprattutto costituzionali di una Costituzione rigida come quella italiana, con riferimento specifico poi alla tutela di un bene primario che si basa poi sul bene della fiducia tra tutti i cittadini, e sappiamo che nella fase di definizione della Costituzione questo articolo 47 ha avuto un'amplissima discussione e approfondimento. Il passaggio importante è che comunque, per quanto riguarda la trattativa attivata dallo Stato italiano, sì, cui noi non facciamo, certo, certo, non facciamo una parte attiva, però il tema non è in contrapposizione, ma è all'interno di quelle flessibilità che sono, bravo, previste nella stessa direttiva. Beh, per questo, cioè, la nostra domanda, perché se uno mira a dire, e il governo questo ripete sempre, un intervento concordato all'interno del quadro delle regole, tutti richiamano l'articolo 32 della BRRD, comma 4, 4, II, eccetera, eccetera, allora dire però noi la BRRD la costruiamo incostituzionale fa un po' a pugni, o l'uno o l'altra, no? Diciamo che tutte e due le cose però in qualche maniera reggono, le dico per quale motivo, perché da un lato abbiamo un'esigenza immediata sicuramente di confronto e anche di flessibilizzazione che mi sembra che stia venendo come richiesta anche da parte di altre istituzioni, e anche una valorizzazione di quelle che sono flessibilizzazioni già previste nella direttiva. Nello stesso tempo, dato che noi sappiamo che è in corso di revisione la stessa BRRD, cioè ci sarà nel corso del 2017 un una revisione anche di quelle che sono le gerarchie dei titoli delle passività che sono soggette al bail-in, ovviamente da parte nostra c'è una rappresentazione di questo potenziale elemento che noi rappresentiamo di non coerenza con la Costituzione italiana, proprio per rafforzare anche una discussione che sarà una discussione molto più ampia in sede europea. Quindi non bisogna supinamente accettare quello che viene dall'Europa, perché è sempre cosa ben fatta, ma bisogna poi farne una valutazione, e va fatta una valutazione diciamo in punta di diritto, tenendo conto di tutte le esigenze. La nostra, questo è chiarissimo. La nostra obiezione è questa: dipende dalla lettura, da dove venga i 360 miliardi a cui si sommano tra sofferenze nette, sofferenze lorde, incagli, eccetera. So che questa cifra non piace molto a Banca d'Italia, parla di questa cifra, dicono che bisogna parlare solo delle nette, che anche le nette sono in larga misura coperte, la garanzia reale, eccetera, eccetera. D'accordo, però se la lettura è, come è diventato ufficiale, perché il governatore ieri l'ha ribadito, che questa mole di credito deteriorato, un terzo del totale dell'euroarea, dipenda solo dalla crisi, cioè dall'effetto che le imprese non hanno più pagato, allora il governatore dice: per questo noi chiediamo che le procedure di recovery e risoluzione non si basino sulla graduazione di strumenti, di compartimento di strumenti posti dalla direttiva europea. A noi pare che invece dipendano anche da un vero azzardo morale, dovuto a come funzionavano le regole prima in Italia, prima delle ispezioni della BCE, che vengono molto contestate dal sistema bancario e dal regolatore anche italiano. Gli aumenti di capitale più sono venuti quando sono arrivate le ispezioni del BCE. Prima si facevano con strumenti ibridi, anche in grandi banche italiane. È vero, è falso? È vero, lo sappiamo che è così. Ma strumenti ibridi collocati a risparmiatori, bravo, al dettaglio, inconsapevoli che si trovavano con la laurea, partendo dalla quinta elementare. Non perché noi vogliamo far scorrere il sangue degli azionisti, far scorrere il sangue degli azionisti, degli obbligazionisti subordinati. Oltretutto, lo Stato ha deciso in Parlamento di una procedura di rimborso dei subordinati delle quattro banche novembre scorso, basata sul reddito e patrimonio, che mi fa abbastanza rabbrividire, ma comunque ha deciso di farla, quindi potrebbe comunque attuare anche in MPS la conversione di metà dei 7 miliardi di subordinati in equity, l'abbattimento rispetto al nominale, no, rispetto al valore di mercato attuale della conversione, perché sarebbe un bel danno patrimoniale agli obbligazionisti. Può procedere poi come ha fatto per le quattro banche, lo vuole fare per reddito del patrimonio, bene, lo faccio. Ma la nostra opinione è che se improvvisamente ci dimentichiamo il principio della compartecipazione, il segnale che viene ai manager delle banche, agli azionisti delle banche, mi rendo conto, l'ABI rappresenta loro, però è quello di un colpo di spugna su quello che abbiamo visto, cioè sull'azzardo morale, che non è così secondario nella vicenda delle banche italiane. Secondo lei, Torriero, il nostro ragionamento in cosa è sbagliato? Allora, alcuni dati che sono fondamentali con riferimento alle ricapitalizzazioni che ci sono stati a partire dall'avvio della crisi finanziaria. In realtà le banche italiane sono ricapitalizzate per 50 miliardi circa, e molti di questi prima, diciamo, dell'avvio dell'unione bancaria e del sistema unico di vigilanza. Questo solo per contestualizzare, quindi è stato fatto anche in un regime di vigilanza diverso. L'altro elemento, questo sappiamo di avere delle posizioni leggermente diverse, ma se io prendo banalmente i dati, quindi prendo le statistiche ufficiali della Banca d'Italia dal 1995 ad oggi, sì, e faccio il rapporto tra sofferenze nette in Italia, il rapporto agli impieghi, io vedo che nel 1995 il rapporto era 5,5%, oggi siamo al 4,4%, quindi non abbiamo ancora raggiunto il picco del ciclo negativo che avevamo sperimentato a metà degli anni 90. Ma questo solo per dire che poi il tema delle sofferenze, spesso si fa un po' una confusione generale tra quello che è un tema delle sofferenze che sono coperte con garanzie e quelle che non sono coperte con garanzie. Quelle non coperte con garanzie si vendono facilmente sul mercato perché hanno un valore particolarmente basso. Il vero problema in Italia è vendere delle sofferenze con agganciate le garanzie, sapendo che poi i tempi delle procedure di escussione delle garanzie in Italia, cioè la tutela dei diritti in Italia, è molto debole rispetto agli altri paesi. Quindi abbiamo delle lunghezze particolarmente significative. E questo che cosa determina? Che chi compra le sofferenze si vuole cautelare dai tempi lunghi dell'escussione dell'eventuale garanzia e quindi di conseguenza fa dei prezzi che sono sicuramente disallineati. Quindi una banca ha molto più convenienza di aspettare i 7 anni di chiusura della procedura e recuperare il 40% medio e non cedere al 20% così come emerge dalle proposte che vengono fatte dagli investitori. Però il tema importante, noi abbiamo fatto anche una recente analisi come centro studi dell'ABI e abbiamo fatto l'evoluzione del rapporto tra sofferenze e impieghi in Italia comparato con gli altri paesi e abbiamo visto che gli elementi fondamentali che spiegano la crescita delle sofferenze in Italia rispetto agli altri paesi è l'andamento del PIL, perché anche ieri è stato ricordato una riduzione del 10% del PIL in Italia rispetto al periodo pre-crisi è simile a quella, lo ripeto spessissimo, ma è il numero che avevo identificato, quello che è avvenuto in Italia solamente tra il 1939 e la metà del 1943, cioè in un periodo in cui c'è stata una guerra mondiale, non quella poi nel nostro paese, perché poi l'incremento, la diminuzione del PIL è stata ancora superiore. Però ecco, questo elemento di aver avuto sostanzialmente una sorta di guerra tra il 2008 e fino allo scorso anno è sicuramente un elemento che incide direttamente. Cioè, se noi vediamo tutti i fallimenti delle imprese... Aspetti, va benissimo. Adesso torniamo tra un minuto con lei perché abbiamo l'informazione sul traffico. Torero, noi dobbiamo avere l'accortezza che per chi ci sente per radio non possiamo avventurarci troppo sulle mente tecnici. Però lei sa meglio di me che se andiamo a vedere il bollettino statistico della Banca Italiana alla mano, la classe di prenditori dei crediti deteriorati delle banche, troveremo un ammontare elevatissimo concentrato nei grandi e nei grandissimi imprenditori, cioè in quelli che esprimono il problema del credito relazionale nel nostro paese. Non la vastità del 99,9% delle piccole imprese italiane che hanno iniziato a non pagare per effetto del PIL che cade e dei pagamenti che non arrivano e così via. Quel dato lì, o lo guardiamo in faccia e noi vogliamo girare pagina rispetto alle prassi che abbiamo visto nelle banche su cui ci sono aperte le indagini penali, oppure facciamo finta di niente. Io lo capisco che il regolatore, la politica per non avere gli obbligazionisti sotto Palazzo Chigi, il PD perché Siena è del PD, eccetera eccetera, io capisco tutto, però noi esistiamo anche per porre delle domande. Torniamo tra un minuto. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui tornati in diretta, abbiamo con noi il vice direttore generale dell'ABI Gianfranco Torriero e nel frattempo Carlo Alberto appunto aveva tirato fuori anche il dato a cui facevo riferimento, quello della classe di prenditori. Per pesare, sì certo sono gli effetti della crisi sui crediti deteriorati, però c'è un problema che secondo noi si è visto anche. Com'è il dato, Carlo? Beh, il dato è che il numero di affidati che è in sofferenza è per l'82% piccole e medie imprese, ma il volume è solo l'11%. Esatto. Di questi piccoli. L'89% sono diciamo crediti milionari non restituiti, quindi oggettivamente aziende medio-grandi o molto grandi con una alta concentrazione anche oltre i 25 milioni di euro di sofferenze, quindi c'è una propria inversione. Chi parla della strozzinaggio alle piccole e medie imprese non sta guardando i numeri, oppure li guarda e fa finta di non vederli. Allora, ora a questo punto, secondo voi, Torriero, il calendario, diciamo così, di questa trattativa, come si può ipotizzare? Scusi, volevo rispondere all'osservazione che avete fatto, perché è importante. È vero che ovviamente i più grandi imprenditori hanno anche le maggiori sofferenze, ma allo stesso momento hanno anche maggiori finanziamenti, così come sono anche coloro che fanno più investimenti, cioè che domandano più credito, perché se andiamo a vedere il fatturato delle grandi imprese c'è uno sbilanciamento verso appunto il segmento delle grandi imprese, gli investimenti, quindi gli impieghi, ma anche le sofferenze, cioè tutti i soggetti più grandi ovviamente hanno maggiore richiesta di finanziamento, quindi attenzione a fare una comparazione che mette in evidenza direttamente un fenomeno solamente basato sul tema relazionale. Cioè, chi è più grande ovviamente domanda più finanziamenti, nel momento in cui va in default va in difficoltà, si rischia di avere le sofferenze, ma lo stesso tema ce l'abbiamo se prendiamo gli aggregati fatturato e investimenti, sono concentrati soprattutto sulle grandi imprese, quindi questo è il primo elemento. Secondo elemento, tenete conto che appunto anche con la nuova vigilanza, ma anche prima, ovviamente eventuali comportamenti non corretti, sapete tutti quanti che nel 2014 è stata fatta una analisi approfondita da parte della BCE per quanto riguardava soprattutto le posizioni più significative, e le banche italiane non sono stati fatti dei rilievi significativi, cosa che invece per noi gli altri paesi. Terzo elemento importante, per quanto riguarda il sostegno che è stato dato al mondo delle imprese in questi anni di crisi, è stato rilevantissimo. Noi abbiamo fatto tantissimi accordi con le cosiddette moratorie, cioè la possibilità di sospendere per un anno il rimborso di una quota parte dei loro debiti, e questo ha determinato un flusso aggiuntivo di liquidità per il mondo delle imprese pari a 25 miliardi, sostanzialmente come se avessimo fatto intesa tra le banche e il mondo delle imprese due manovre finanziarie. Quindi il tema che sono state le banche che poi hanno sostenuto in questa fase importante anche il mondo delle imprese con misure non convenzionali, proprio per rimanere nella terminologia anche della Banca Centrale Europea, è un modo per far emergere anche degli elementi di positività nel rapporto. No, ma elementi positivi, per carità, ma lei sa meglio di me, si può leggere in due modi anche il dato, che viene anche questo rilevato ufficialmente, sul andamento degli impieghi nel tempo rispetto al pre-crisi, e siamo ancora a 15 miliardi meno per le imprese, il più, la somma, il segno positivo nell'andamento degli impieghi, positivo come andamento rispetto al pre-crisi, sta tutto nel segmento famiglie e ripresa mutui. Anche qui ci sono due criteri di lettura, uno quello che è ufficiale delle banche, dice, ma il problema riguarda le imprese, sono le imprese che non investono, che ha dei evidenti fattori, ne abbiamo più volte parlato, ne parleremo anche nella seconda parte della trasmissione, e dall'altra però è anche un andamento, segno meno complessivo alle imprese, che si spiega appunto con i crediti deteriorati eccetera eccetera, perché è ovvio, abbiamo di fronte una classe di imprenditori segnata da questo fenomeno del deterioramento del credito negli attivi bancari. Ovviamente a noi non piace anche per un'altra ragione, perché il segno dello Stato che torna è il piacere che torna, perché le banche italiane si sono riempiti la pancia di 400 miliardi di titoli sovrani italiani e lo Stato restituisce il favore. Questo è il punto vero. Invece di restituire Stato di diritto, certezza nei tempi di recupero, il vero problema è chiedere allo Stato di far rispettare la legge e farci ritornare. Iniziative sono state fatte, ma siamo ancora lontanissimi. Questo, il tempo è quello che ci manca, caro Oscar, non il capitale dello Stato. Lo so, però nel tempo qui finirà, in nome dell'evitare una crisi, a tornare a un punto fermo italiano dagli anni 30, lo Stato nelle banche. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati in diretta ai compari dei conti da Belva. Renato Cifarelli. Carlo Alberto Carnevale Maffei. Mario Seminerio. Ecco, in questa giornata in cui piano piano Carlo Alberto, Mario Seminerio e Renato Cifarelli stanno piano piano innalzando la bandiera bianca della difesa contro il fatto che lo Stato era fuori dalle banche, invece rientra nelle banche, questa commossa cerimonia che si tiene qui con Siena, che naturalmente non c'entra niente con la politica, con il PD, non c'entra niente nel 2011-2012 che pochi fessi, io tra quelli, chiedessero all'epoca, quando si poteva fare, che lo Stato intervenisse, azzerasse gli azionisti, cioè la fondazione, cioè il PD, e a quel punto ripulisse e rivendesse, proprio Bank of Scotland, insomma altri modelli c'erano in Europa, ma si poteva fare allora, ma allora non si fece perché bisognava salvare la fondazione, e della fondazione è stata salvata facendo la scena del capitale dal 51 e rotti a poco più dell'1%, però salvandola, e salvandola con la piena cooperazione dell'industria, di Confindustria e così via, impiccando la banca che aveva pochissima redditività a pagare i pingui interessi allo Stato con i Tremonti Bondi Bonds. Questa è la storia di questi anni alle nostre spalle. Diciamo questa cosa Così rispondiamo agli sms che sono arrivati, che vogliono il TARP, perché devono averlo letto di recente, sì, su qualche importante. Giovanni, ma non solo, anche Zingales. Anche eccetera. Zingales, c'è un problema. Intanto noi, come direbbe Vasco Rossi, non siamo mica gli americani. Il TARP è l'intervento, diciamo, americano. Esatto, esatto. Poi andate a vedere cosa è stato il TARP, cercate di calarlo nella realtà italiana e vedrete che è infattibile, esatto, sia per la BRRD sia per la natura delle operazioni. Se poi pensiamo a quello che è andato più vicino per certi aspetti al TARP, sono i Monti Bond. Esatto. Monti Bond che hanno, visto che c'era di mezzo il discorso degli aiuti di Stato, eccetera, uno strumento ibrido di capitale autorizzato dalla Commissione Europea, eccetera, pagavano l'8,5% con cedola in aumento, cosiddetto step up, su 4 miliardi. Il conto economico del Monte Paschi veniva incravattato. Esattamente. Perché c'erano 350-360 milioni all'anno di interessi, esatto, sui Monti Bond, che stavano peggiorando la condizione del Monte dei Paschi. Bassissima redditività già. Quindi, questo prima di parlare di TARP, che erano delle azioni privilegiate con un dividendo prioritario rispetto alle ordinarie e quant'altro, proviamo a calarci nella realtà europea con il concetto degli aiuti di Stato. Perché, ribadisco, avendo visto quelle cose relativamente da vicino, che quello è stato un danno, non si poteva fare altrimenti nel menu delle opzioni disponibili, ma quello è stato un enorme danno. Il Monte dei Paschi ha deliberato di corsa l'altro aumento da 3 miliardi, perché la priorità era quella di rimborsare pagare, i tre quarti del Monti Bond, che sono quanto di più simile al concetto di TARP esista oggi in Europa con il quadro normativo europeo. Per cui siate gentili, prima di lanciarvi sugli slogan, forse studiate, meglio approfondire. Ecco, adesso io questo naturalmente ai miei amici meccanici non posso dirlo per ovvie ragioni, però applaudo, perché questa è una ricostruzione di Mario dalla prima all'ultima parola, che stride da una parte con lo Stato salvi ciò che ha compromesso, scusate, uno, due, per favore non facciamo paragoni che allo stato degli atti e visti gli strumenti non stanno in piedi, quindi che ciascuno ripeta TARP, ve lo spiegheremo anche meglio se volete, ma non si può fare ed è sbagliato, perché quello che è più vicino al TARP lo abbiamo già fatto ed è servito a buttare ulteriormente sale sulle ferite di MPS. Sentiamo come la pensano un po' i nostri ascoltatori, perché cari amici magari ci sbagliamo noi, se arriva lo Stato tutto si risolve, torniamo ai grandi nittiani, a Beneduce, torniamo ai grandi gestori pubblici delle banche, perché lo Stato entra dentro deciderà a chi accasarli e così via. Attenzione, e lo farà d'accordo con chi lo sta sostenendo, non sarà l'Economist, grande gol per il governo avere l'Economist dalla sua, lo riconosco, ma lo farà con chi in questi mesi si è speso a mi sa che siamo un po' vecchi, caro Oscar. No, mai dire questo. Non c'è niente di più vecchio dello Stato che torna nelle banche di chi lo sostiene, guarda. Loro sono vista, la preistoria. Come l'abbiamo già vista. Non... Angelo da Taranto, cominciamo con l'opinione degli ascoltatori. Sì. Angelo, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo intervenire, io sono ex banchiere. Devi parlare di Beneduce tanto tempo fa, giusto? Sì. Beneduce, Piazza Scala. Io volevo chiedere una cosa a tutti i politici. Perché le banche fanno utili e pensano ai loro, a chi devono darle e a chi non devono darle? E poi i risparmiatori o i piccoli azionisti devono pagare bene. Per quale motivo? E poi danno soldi a chi non devono darle, soldi a amici e parenti che compagnia cantando. Perché tutto questo? Quando poi devono pagarle tutti. Tanto c'è sempre pantalone. Poi un'altra cosa e poi chiudo. Aspetti, però lei è d'accordo che se torniamo al tanto c'è sempre pantalone, il messaggio è un incentivo all'azzardo morale, non a farlo smettere, è vero? No, devono smettere. Oh. Devono smettere anche la politica. Benissimo, l'osservazione di Angelo. Sentiamo quella di Mauro da Salerno. Buongiorno dottor Giannino, buongiorno a lei e ai suoi collaboratori. Senta, io sono cliente del Monte Paschi da oltre 40 anni, quindi probabilmente il mio giudizio è un po' condizionato dall'emotività, ma io credo che i guai del Monte Paschi abbiano radici molto molto lontane, sì, e risalgono all'epoca in cui praticamente fu costretto ad acquistare la Banca del Salento, diventata poi Banca 121, a prendere un personaggio come De Bussis che ha fatto tre danni al Monte Paschi e poi è andato a fare la Deutsche Bank. Ma tutto questo perché dietro c'era la regia di D'Alema, quindi ironicamente lei sostiene che la banca non è mai stata condizionata dal potere politico. Allora, a questo punto, se lo Stato interviene a salvaguardia dei risparmiatori e dell'occupazione, va bene, ma se interviene per esercitare pressioni politiche sulla dirigenza bancaria affinché si concedano prestiti a destra e manca, evidentemente non va bene. Guardi, io assisti a un episodio. Però Mauro, scusi, la domanda è, visto che lei giustissimamente, e noi la ringraziamo perché siamo d'accordo, a richiamare quanto pervasiva e sistematica è stato l'intervento della politica del MPS, questi fatti la inducono a credere che siamo improvvisamente entrati, entreremo nel mondo in cui la politica e le istituzioni italiane saranno degli angeli, cori, serafini e dominazioni? O la storia deve indurci a essere un po' pessimisti e a diffidare del fatto di come... La storia ci deve indurre a essere pessimisti, a diffidare e a sperare che qualcosa sia cambiato. Speriamo. Perché altre soluzioni non ci sono. Non lo so se altre soluzioni non ci sono, che lo Stato si pigli il Monte Paschi dopo averlo compromesso con i Monte Bonci. Io francamente ho dei fortissimi dubbi su questo. Cioè che una cosa fatta bene, cioè... chiedendo a metà oggi dei 7 billion subordinati di fare uno swap di diventare equity, di partecipare al rafforzamento del capitale. Ripeto, il governo ha già l'ok in tasca per poter eventualmente anche esaminare una procedura di rimborso di coloro che, io direi, i rimborsi ai subordinati si danno solo una volta acclarato che è stato truffato il sottoscrittore, ma il governo e il Parlamento italiano hanno già stabilito che si dà per reddito e patrimonio, e in quello secondo me, con una procedura di aumento di capitale di mercato in queste condizioni, visto che stanno facendo la trattativa sul prezzo di cessione di NPL, io non sono affatto convinto che l'ingresso dello Stato nel mercato sia senza alternativa. Caro Alberto, tu sei convinto che è senza alternativa l'ingresso dello Stato nel capitale? No, l'ho scritto molto chiaramente su Sole 24 Ore Finanza qualche mese fa. La direttiva prevede la conversione delle obbligazioni subordinate, la conversione senza bisogno di bail-in, siamo ancora in fase di recovery con un piano industriale, magari con dei warrant che possano dare la possibilità a chi ha subito questa conversione, esatto, di beneficiare di eventuali recuperi nel tempo. Quando dico che serve dare tempo e certezza del diritto ai capitali privati invece che dare spazio ai soldi pubblici, questo dico, abbiamo scritto con chiarezza, ed è esattamente l'applicazione intelligente della legge che è fatta per evitare le crisi bancarie gestite in maniera disordinata. Visto che l'obiettivo è stato travolgere la direttiva e quindi dire no, in generale serve a dire la BRRD è morta, in Italia non si applicherà né ora né mai e va cambiata. Io non lo penso, perché l'Italia ha perso la sovranità bancaria e non ha più la giurisdizione legale per decidere, quindi per fortuna questa cosa è legge, ed è legge dello Stato italiano che richiama la direttiva europea, quindi si stanno lamentando, qualcuno anche con qualche giustificazione, io non sono quello che dice tutto perfetto, no? Stavo dicendoti per esempio che le comunicazioni regolatorie dell'Europa sono un po' schizofreniche, gestite male, hai visto che danno hanno fatto per esempio all'inizio di gennaio con comunicazioni che sono, diciamo, state, questo tema secondo me va detto con chiarezza, ma la legge va rispettata. Qui si tratta di cambiarla, invece è proprio diversa la posizione italiana. Massimo da Gorizia. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, suoi ospiti. Ma io sono convinto che il tema delle sofferenze è un tema delicatissimo e deriva dalla fallimentare legge del 93 del testo unico, che secondo me gran parte dei mali del sistema bancario italiano derivano da quella scellerata legge del 93. Perché non si può introdurre la piena concorrenza nel mercato bancario senza gli adeguati controlli. Questo è stato devastante. E poi il tema principale adesso è la redditività, le banche non fanno più reddito, siamo troppe banche e troppi bancari. E quindi sì, recuperare redditività è fondamentale, e per recuperarla probabilmente sarà necessario... Massimo, le faccio osservare che la presenza di ritorno al capitale pubblico nelle banche impedirà la rapidità necessaria per piani industriali che affrontino il problema dell'elevato rapporto dei costi fissi sull'income basso delle banche. Perché questo ce lo insegna, caro Alberto, l'esperienza storica. Quando c'è il capitale dentro, lo Stato dentro il capitale delle società, diventa complicatissimo. No, congela la struttura organizzativa. Ha ragione l'ascoltatore di dire un problema di redditività, ma è una delle ragioni per cui il capitale privato non arriva. Se ci fosse redditività almeno prospettica, signori, i capitali li mettiamo tutti nelle banche sane. Qual è il problema? problema. Prego Mario. No, no, vai, vai. No, quindi secondo me c'è un tema chiaro da dire. Signori, guardate che il problema dell'Italia, del sistema bancario italiano, non è solo in termini patrimoniali, è sostanzialmente in termini economici, cioè in un modello di business che ha bisogno di un forte consolidamento, una profonda ristrutturazione del modello distributivo, una grande conversione su modelli di risk management moderni. E allora parliamo di nuovo di rendere redditizio investire sul sistema bancario, che è indispensabile al paese, ma così com'è non attrae capitali. Quindi più che metterci i capitali e decidere chi li deve mettere, vediamo come fare a renderli attrattivi i capitali investiti in banca. Un intervento dello Stato congela, anzi in un certo senso difende, le rendite costituite. Ma c'è da dire, adesso io non è per difendere le banche, anche perché non ho particolari interessi, però giustamente il problema della scarsa redditività è esacerbato dall'ambiente di tassi a zero. Quindi le banche hanno veramente dei margini di interesse che si sono inabissati e sono costrette a usare i ricavi da commissioni e servizi. Esatto. Solo che non è che, ripeto, come ho già detto più volte, non è che possiamo prendere tutti i dipendenti delle banche e mandarli in giro per strada con la valigetta a vendere elettrodomestici col credito al consumo. Quindi anche sono d'accordissimo con Carlo Alberto sul problema dei modelli distributivi, eccetera. Il problema è che siamo nel peggiore momento possibile, perché abbiamo la convergenza di questo stock imponente di sofferenze, frutto della crisi, di incapacità, di quant'altro, eccetera. Una redditività caratteristica delle banche, che soffre molto perché i tassi stanno a zero e sono anche negativi e resteranno tali molto a lungo, ed è veramente un settore che soffre, non solo in Italia, ma anche in Europa. Però, per l'ennesima volta, noi siamo l'anello debole della catena, e qui c'è Mario, poco da dire. Io ti direi infatti che sono il minoritario, perché io mi auguro che venga spezzato presto l'incantesimo di questo orizzonte pluriennale di tassi negativi, che rende impossibile scontare rendimenti del capitale in molte parti di investimenti reali, e che in realtà serve solo a favorire gli stati per indebitati. Però questo, anche qui sono in minoranza, perché tutti chiedono la protrazione eterna di questa droga monetaria alle banche centrali. È ovvio, perché questo consente ai governi di rinviare, questo consente agli stati di tornare nelle banche, questo è uno dei motivi per cui si alzano le barriere nazionali, l'autarchia, i nazionalismi, è tutta una cosa che si auto combustisce da sola, per così dire. Traffico, torniamo. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qua, tornati in diretta nel compare dei conti la Belva. Ci abbiamo ancora qualche ascoltatore. Sì, è l'ultimo, Maurizio da Massa Carrara. Maurizio, prego. Maurizio, eccoci qua. Grazie, prego. Grazie molto e complimenti veramente per la trasmissione. Grazie. Due considerazioni veloci. Ho sentito prima un commento su le sospensioni, le moratorie e gli allungamenti dei mutui. Sì, era Torriero, vice direttore generale dell'ABIA. La ringrazio per la precisazione. Volevo precisare però anch'io, visto che mi occupo di finanza, di passivi, quelle operazioni, al di là del fatto che erano state concesse, se non mi sbaglio, per una norma governativa, hanno creato pochi problemi alle aziende, perché se da un lato è stato possibile sospendere o allungare dei mutui e in effetti parte di questa liquidità è rientrata in azienda, dall'altro hanno fatto un giochino molto carino, cioè ci siamo ritrovati con aziende che avevano quella segnalazione in centrale rischi, con un deterioramento allucinante del rating, e ci si sente dire: ah, ma se devi richiedere un fido devi aspettare di rientrare e di aver finito il periodo di sospensione. Si sono rifatti un giochino, tutto probabilmente, che ha rideterminato oneri maggiori alle aziende, perché se da un lato hanno preso liquidità, dall'altro hanno peggiorato i rating, e quindi con ovviamente un ritorno sui tassi passivi allucinante. Questo volevo segnalarlo, perché mi sembrava opportuno, visto che è una situazione che ho vissuto diverse volte. E io ringrazio Maurizio. Però in questo caso, avendo partecipato ai tempi in Confindustria, perché io ero anche in Confindustria. A tutta la questione, non dimentichiamoci che l'abbiamo fatto nel 2008-2009, sì. Quindi in un momento in cui le aziende avevano dei flussi di cassa veramente difficili, e quindi il rinvio per molte aziende è stato utile. Certo che poi ci hanno pagato gli interessi e magari hanno avuto magari qualche piccolo problema sul rating di rating, che veniva meno. Però in quel periodo lì il rating peggiorava per tutti, perché non dimentichiamoci che quando è partita la crisi è cominciato il giro degli NPL anche per le aziende. Allora, cari compari, noi abbiamo adesso un nuovo ospite, e abbiamo questo nuovo ospite prendendo come spunto questo suo ultimo libro, che ha un titolo apparentemente sembra un manuale per cercare una moglie a dei giovani che abbiano dei dubbi. Non parla di questo, che il titolo del libro è Terra e Buoi dei Paesi Tuoi, scuola, ricerca, ambiente, cultura, capitale umano quando l'impresa investe nel territorio. Ed è un libro che a me è molto piaciuto, perché io trovo molto, insomma, mi piace l'autore, perché lo seguo da parecchi anni, e questo libro affronta alcuni dei temi fondamentali che restano sempre fuori dal dibattito pubblico italiano, perché noi ci occupiamo delle regole europee da cambiare, fare più deficit. Oggi c'è una, lo sottolineo a chi ci ascolta, c'è un'intervista di una pagina intera molto fitta sul Corriere della Sera di Carlo De Benedetti, la quale io non condivido praticamente una sola parola, in cui dice che la globalizzazione così è un errore, marcia indietro, che bisogna assolutamente che lo Stato rientri nelle banche, che bisogna che ottenere più deficit e debito pubblico, le regole europee sono sbagliate. Vabbè, allora diciamolo pure, insomma. Però ecco, per dire, i grandi industriali italiani parlano quella lingua lì. Oh, chi sono io per contraddirli? Ma a me vengono i brividi. Industriali, insomma. No, vabbè, ho capito. Cioè, se vuoi te lo traduco io, chi salvato dalla generosità delle banche su esposizione di debiti in Sorgenia, perché se fossi stato tu, caro mio, finivi in galera, ecco, certo, restituisce il piacere dicendo Stato salva le banche. Ecco, ma io la vedo così, perché non è che in RCS è andata diversamente, o in molti gruppi italiani è andata diversamente. C'è chi vive di generosità delle ricontrattazioni bancarie, oggi ne è già in prima fila, ci pensi lo Stato. Questo però sono io che sono un povero cretino. Una mano lava l'altra. Zero e tutte e due portano, zero al default. Allora, invece, questo libro interviene sui temi della competizione, della competitività e della produttività italiana, nel tentativo di non far sembrare tutto sbagliato, ma difendendo alcuni, difendendo non significa integralmente, ma partendo dai presupposti di alcuni dei radicamenti territoriali delle imprese italiane. Per questo Terra e Buoi dei Paesi Tuoi, no? Capitale umano e così via, eccetera. Allora, l'autore è Marco Magnani. Marco Magnani insegna Monetary and Financial Economics alla Scienza Politica della LUIS, c'ha un curriculum di tra mondo privato, banche d'affari, università internazionali, eccetera eccetera, che ci metto 5 minuti solo a leggerlo, ma grazie di essere con noi in questo sabato mattina. Buongiorno. Naturalmente, senti, per quello che insegni, prima di parlare del libro e della competitività, ti devo chiedere un flash anche a te del tema con cui abbiamo cominciato fino a questo momento, cioè necessario che lo Stato rientri nel Banco Italiano, secondo te? Ma molto molto molto pericoloso, speriamo non sia necessario. Devo dire, la tempistica di questa entrata in vigore delle nuove regole europee non aiuta, perché come è stato sottolineato poc'anzi in studio, lo scenario macroeconomico è difficile, i tassi di interesse sono bassi, non aiutano le banche, il modello di business sta cambiando completamente, quindi non c'era tempistica peggiore. Però questo non deve essere un alibi, così come non deve essere un alibi il fatto che viene ripetuto un po' dai nostri politici, cioè sembra quasi che ci vengano imposte queste regole. In realtà c'è una responsabilità, a mio parere, politica molto precisa, a livello elevato, perché queste norme sono state approvate, a livello più locale, dato che parliamo di territorio di locale, perché molto spesso le nostre banche locali, io sono un fautore della banca locale indipendente, sana, non politicizzata, ma spesso le nostre banche locali sono state mal gestite in maniera clientelare, e questo prima o poi i nodi vengono al pettine, insomma, stanno purtroppo venendo al pettine in un momento, in uno scenario particolarmente difficile, e quindi speriamo non sia necessario l'intervento dello Stato, perché l'ultima volta che c'è stato un grosso intervento dello Stato insomma, siamo quasi un secolo dopo e esatto, stiamo ancora bravo, cercando di liberarci. Bravo che te, bravo che lo ricordi. Ma iniziamo invece l'argomento serio. Non si è sbagliato per troppi anni a credere che fossero le sinergie territoriali la chiave di volta della competitività italiana rispetto invece alle catene del valore mondiale? Cioè, non bisogna avere la testa più fuori rispetto al fare sinergia territoriale, che è il grande dibattito, insomma, del post-crisi nel nostro paese per fare competitività? Ma direi bisogna avere la testa fuori e i piedi però per terra sul territorio. Io dico con una metafora, bisogna avere le radici profonde nel proprio territorio, parlo dell'impresa, soprattutto della piccola e media impresa, nello stesso tempo non si può non avere delle antenne tese sul mondo, sui mercati internazionali, servono tutte e due. È sbagliato ritenere che il territorio, rimanere locali e fregarsene della globalizzazione possa essere sufficiente, perché la globalizzazione è inarrestabile, non si può tornare indietro. Questi grandi cambiamenti epocali, come anche la digitalizzazione, i cambiamenti tecnologici, non si possono arrestare. Bisogna gestirli al meglio, bisogna adattarsi, bisogna sapersi adattare, bisogna sfruttare l'opportunità del cambiamento. Quindi non si può rimanere soltanto radicati localmente, non si può, bisogna anche avere delle antenne dritte sul mondo. Le imprese vincenti, al di là dell'aspetto dimensionale, che certamente può essere importante, ma l'aspetto più importante delle aziende vincenti, delle imprese vincenti, sono quelle che hanno appunto mantenuto un legame stretto con il proprio territorio, che vuol dire appunto sfruttare al meglio i vantaggi competitivi del proprio territorio, dei distretti, delle scuole, della formazione. Nello stesso tempo hanno, o da sole, oppure se non ce la fanno da sole attraverso una filiera, e quindi una rete, delle antenne dritte sul resto del mondo, sapendo come cambiano i mercati, sapendosi adattare a questi cambiamenti. Chi è solo globale, quindi delocalizza tutto, soltanto locale, e se ne frega della globalizzazione, probabilmente non sopravvive. Ti faccio una domanda secca. Nell'approccio al problema della produttività italiana, che a me convince di più, ma guardando i dati, non perché poi ci sono filosofie dell'impresa, lo capisco, tante cose quando si parla di questi argomenti, però è uscito a metà maggio un report della Commissione Europea dedicato al conundrum, all'enigma della produttività italiana, fatto anche da numerosi ricercatori italiani nell'equipe messa all'ordine sulla questo argomento della Commissione Europea, e la tesi era conclusiva in due pagine secche di conclusioni, e dicono: guardate, qui non è un problema, quella multifattoriale, però non è un problema di settori a più avanzato valore aggiunto rispetto ad altri. Il problema è che in ogni settore italiano c'è un problema di bassa produttività verso alta produttività, c'è un problema di bassa connettività complessiva nelle imprese italiane tra altre imprese della filiera, paragoni e numeri con la Germania. Quindi, cari ragazzi, dovete ripensare al modo in cui l'impresa deve vivere la sua sfida in maniera orizzontale e non solo verticale. Una cosa che non c'entra niente con il territorio, uno, due, e c'entra invece molto con le risorse diverse che sono necessarie nelle piccole e medie imprese italiane e all'imprenditore che la controlla, per capire come si fa questa connettività tra imprese, come si fa lo scouting nei sistemi di ricerca territoriali e anche internazionali nella propria filiera del settore, sui prodotti che si fanno e così via. Cioè tutte risorse che il piccolo imprenditore italiano stenta a capire. Perché dovrei pagare qualcuno che mi fa questo mestiere qua? Dimmi cosa ne pensi tu, ma la risposta me la dai tra un minuto, perché intanto abbiamo un'interruzione. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati qua in diretta, ci stiamo interrogando su competitività, produttività, quanto conta il territorio e quanto contano le catene globali, e quanto il dibattito sul territorio continua un po' a gravare un po' quanto troppo. Quanto è grosso il territorio? Allora, il territorio negli ultimi 25 anni, perché fa il mio mestiere, è diventato il corrispettivo di 50 chilometri, forse, il mondo, perché oggi, allora, se noi pensiamo alle difficoltà che avevamo 25 anni fa di comunicazione, di viaggi, di trasporti, di logistica, di tutte queste cose qua, Secondo me, rispetto ad allora, il territorio è diventato fra i 50 e i 100 chilometri, perché oggi tu puoi fare una riunione condividendo i dati sul computer con persone che, no, che ma sono il territorio esiste in ancora? Qualsiasi... No, perché 50-100 chilometri? Guarda che stai sviando l'ascoltatore. Secondo me il territorio 50-100 oggi... chilometri perché la gente, l'uomo ha bisogno della fisicità e ha una difficoltà enorme a... a non percepire la fisicità, e allora tu gli devi dare un qualcosa. Ho capito, ma mentre per alcuni fattori, per esempio il capitale umano, l'integrazione con sistemi di ricerca, ecco, lo capisco, posso capire, lo capisco. Peraltro il territorio è una nazione, è una nozione da superare, non so come dire, nel senso che non esiste più. Ma ci sono tre fattori: l'interscambio logistico, che è diventato estremamente efficiente grazie al container, era in Italia non troppo, però, ma diciamo, l'interscambio informativo. Noi possiamo costruire macchine con moduli dal Brasile all'India alla Germania, scambiandoci dati in maniera perfetta, e l'interscambio finanziario che ha creato globalizzazione. Questo ha consentito alle imprese di avere perimetri organizzativi distribuiti in tutto il mondo. Se vuoi ti do due dati. Beh, l'Italia è tra le prime al mondo nel G7 davanti agli Stati Uniti e all'Inghilterra come partecipazione alle catene del valore globale, Global Value Chain, secondo l'OCSE. Siamo a oltre il 42-43% della percentuale di gross export che deriva dall'estero ed è destinata all'estero, cioè sostanzialmente siamo parte di una grande catena globale. La più alta percentuale è la Corea, che ha quasi raddoppiato la sua presenza a livello mondiale nelle Global Value Chain. Siamo terzi al mondo, dopo la Germania e la Corea, come percentuale di jobs, cioè di posti di lavoro, correlati sì. a forme di domanda o di ingresso all'estero. Quindi, che piaccia o meno, l'Italia è già entrata nelle global sì. value chain e il nuovo territorio dell'economia industriale, chiaramente, si chiama mondo. Poi un giorno dovremo fare un discorsetto sul discorso del deprezzamento del cambio, la competitività e le filiere delle global value chain, esatto. perché vedo che c'è qualcuno che con i suoi modellini da anni 50 sì. non ci arriva. Qualcuno che sta a pescare. No, c'è un bel paper arrivato che dice non questo. Deviate su cose di Pescara. No. Voglio solo dirvi che al contempo, oltre a quei dati però, in questa settimana, per chi fosse interessato, ripeto, leggete anche il libro di Riccardo Gallo, Reindustrializziamoci, perché la tendenza, le imprese italiane sono molto inglobate in catene globali del valore, ma contemporaneamente da troppi anni anche quelle industriali danno un valore aggiunto proprio manifatturiero tra input e output e prodotto finale che poi girano alla filiera, una quota manifatturiera che è in discesa ed è troppo bassa. Media nel campione MRS di Mediobanca è scesa al 16% del totale del fatturato. Dal punto di vista... E per le multinazionali italiane comunque scesa anche per loro al 22%. Quindi c'è un problema serio da una parte di compartecipazione a queste catene, ma dall'altra di perdita. Tenete conto che invece Svizzera, la Germania sta al 33 per la multinazionale, ma siamo al 22. Secondo me, sai da cosa deriva? Deriva dal fatto che dicevi tu prima, cioè di cui si parlava del libro prima, cioè quindi della mancanza di ricerca per il valore aggiunto reale. Allora, in Italia ci sono tantissime aziende che sono subfornitori e i subfornitori, proprio per questa questione di logistica molto buona e molto migliorata nel mondo, sono quelli che in fondo stanno soffrendo di più, perché tu o riesci ad essere iper efficiente e super produttivo, ma hai tendenzialmente i prezzi in calo perché hai sempre la concorrenza esatto. più vicina che arriva da paesi a basso costo, che non vuol dire Cina, poi perché poi no, la gente chiaro. Ha in mente la Cina, però oggi il luoghi di produzione a basso costo, io dico sempre, volete sapere qual è il posto dove si costa meno il lavoro? Prendete l'ultimo paio di Nike uscite, di scarpe e uscite, andate a vedere, guardate sulla linguetta l'etichetta. Cosa c'è scritto Made in Vietnam, quello, Bangladesh, e quello è il posto dove in questo momento il però, mercato allora, facciamo stato di tutte queste serie di obiezioni che noi abbiamo fatto, perché torniamo, abbiamo con noi Marco Magnani, l'autore di Terre Buie dei Paesi Tuoi, UTET, per dirgli quanti di questi spunti possono consentirci di superare il vecchio dibattito su radicamento territoriale contro globale, secondo te, Marco? Ma intanto volevo fare un'osservazione: quando si deve parlare del territorio 50-100 chilometri, l'idea di territorio nuovo, quello che io chiamo territorio 4.0, è un territorio che va al di là del luogo fisico, no, di produzione, in parte anche quello, ma per me territorio, come dicevi tu prima, è anche sono i dipendenti, il capitale umano, ovunque essi sia, nella filiera, ovunque essa sia, quindi va bene al di là di questo. Un bel esempio, io la chiamo la rete aperta, no? La rete aperta è un bel esempio di successo, secondo me, è quello del farmaceutico italiano, cioè le aziende farmaceutiche italiane sono medio-piccole, in un contesto globale, perché non vanno oltre il miliardo e due di fatturato, in un settore in cui i colossi ne hanno 30, 40, 50 di miliardi di fatturato e di capitalizzazione, sono riuscite a sopravvivere e ad essere ancora eccellenti nei loro campi grazie alla costruzione di reti aperte, nelle quali fanno ricerca magari insieme all'università locale, ma anche a un'università che sta dall'altra parte del mondo o una startup che si trova in un altro paese. Quindi il nuovo territorio è una rete aperta. Per rispondere alla tua domanda sulla produttività, secondo me le risposte... punti sono due. Uno, innovazione, cioè l'innovazione in un paese, in un'economia avanzata come la nostra, è assolutamente la chiave fondamentale per la produttività, senza quella non si va da nessuna parte. La seconda, le imprese, soprattutto medio-piccole italiane, devono imparare a cooperare di più in certe cose, naturalmente, mantenendo una sana concorrenza, ma faccio l'esempio della ricerca. Si dice che in Italia si spende poco in ricerca, è vero, ma il problema non è soltanto la quantità, l'entità della spesa che è scarsa, privata soprattutto, ma il fatto che ognuno spende per sé, non si fa, la piccola media impresa non concepisce culturalmente l'idea di fare ricerca su certi temi, non su tutto, e con altre imprese concorrenti, con le università locali, con i centri di ricerca, in una sorta di, chiamiamola, cooperazione, collaborazione, anche qui possiamo usare la parola rete. Ecco, questo è l'unica ancora di salvezza, se dal punto di vista dimensionale abbiamo un gap che diventa poi anche gap cognitivo. Quindi l'unico modo per reagire è questo qui, è quello di avere una maggiore cooperazione tra imprese, tra piccole imprese. Ahimè, devo confermare che è proprio un problema culturale. Questo io lo vedo nella situazione territoriale, lo vedo in Asia Lombarda, lo vedo così, e quindi secondo me, anzi, la situazione territoriale dovrebbero darsi come primo compito quello di, invece di fare convegni sempre uguali, capisci, sul viva la banda larga, dovrebbero focalizzarsi su i difetti evidenti, no, adesso, non sia importante la banda larga, caro Roberto, perché, però per me la questione fondamentale è focalizzare alcuni punti su cui superare dei ritardi dei organizzativi, degli schemi gestionali di governance delle piccole imprese. Su, parliamoci chiaro. Ma è un problema culturale comunque. Lo so, quindi ho bisogno di tempo anche lungo. Sul tema delle banche del territorio. Oh. Fammi citare il caso Veneto, dove l'idea di banca del territorio era più radicata. Per la prima volta in 600 anni il Veneto rischia di rimanere senza sedi giuridiche legali di banche locali, ed è una nemesi perfetta, visto che la gloriosissima e serenissima Venezia aveva illuminato il mondo col credito almeno mercantile, no? Oggi quella cultura del credito concesso agli amici vicini, perché ci guardiamo in faccia, parliamo in dialetto, non ti chiedo i numeri ma ti chiedo le amicizie e i riferimenti, quel modello ma è tutto sbagliato, ma è finito per fortuna, mentre invece dirlo in Italia ti tirano le pietre, e la cosa perché incredibile, siamo belli, se mi permette, le ma no, mi tirano le pietre sempre, come è noto, perché a prescindere tanto mi dicono che devo stare zitto. Rotolante. Ma detto questo, se c'è una cosa che mi lascia senza parole, perdonate, è vedere 200.000, maggioranza piccoli imprenditori, artigiani e commercianti, veneti, farsi fumare quasi 12 miliardi di euro di capitale, e in buona sostanza qui grandi proteste non ci sono qui state. Qui c'è di mezzo l'articolo 47 andati, della Costituzione. Sono andati a piangere l'assemblea della Popolare di Vicenza. Io l'ho visto in streaming, veramente col cuore stretto, la gente che piangeva intervenendo. Oh, santo Dio, però le lacrime basta. Perdonate, io lo considero una nozione di arretratezza di un territorio, sì. Perché è un territorio che non reagisce a 12 miliardi fumati e presi in fondo alla schiena e si limita a piangere, beh, vuol dire che non ha capito, caro Alberto, che quel modello che rimpiangono, loro vogliono altri banchieri che gli diano la pacca, non ti chiedo, vogliono altri Zonin, e se è così, lo Stato glieli darà! Questo è poco per ma è difendere sicuro. L'articolo 47 adesso, della Costituzione, diciamolo. Scusate, Marco Magnani non va confuso però con le nostre idee. Allora io lo ringrazio di aver fatto questo nostro dibattito, che però, come vedete, territoriale e locale in Italia ha a che fare anche in profondità con le cose che non funzionano, non solo con le eccellenze dell'impresa. Leggete il suo libro Terre Boe dei Paesi Tuoi, troverete molti esempi concreti e aziende citate alla mano di modelli per questo, per quell'aspetto, che per Marco Magnani sono l'autostrada da percorrere per non smarrire, sì, un po' di rapporto territoriale, ma di star nel mondo invece di considerarlo oggi il nemiken della globalizzazione, come un po' dice oggi Carlo De Benedetti. Quindi grazie a Marco Magnani, noi torniamo tra un minuto. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Allora, cari compari, e questa puntata nella quale, ahimè, mi è scappato comunque l'urlo, perché quando si parla di Vicenza Zonin sapete che perdo un po' l'altra episodio, mi disse che io dovevo andare a zappare, io. Vabbè. No, però qua c'è gente che scrive, Giannino, Zonin davanti a te è un gigante della finanza. Oggi abbiamo dei chiari riscontri che la temperatura esterna è alta. Cari ascoltatori, ve li meritate, che vi fottano fino alla radice di quello che trovano, perché se questo è il vostro ragionamento... Poi, scusa, Gianmario da Milano, visto che quell'idiota che sarei io ce l'ha con l'articolo 47, facciamo tornare anche la monarchia, la Repubblica deve tutelare il risparmio, punto e basta. Ma va bene, lei ha capito tutto, andiamo avanti. E vada lì a mettersi in fila dietro i banchieri che si daranno per partiti politici, come è stato poi, per decenni. Poi si renderà conto di chi è il vero idiota. Rimpiangete i banchieri democristiani. Adesso, non ce la prendiamo con gli ascoltatori. Fabio Colognini, l'amico, mi ha citato che dietro, in un'assemblea di una nota banca popolare palladiana, non adesso mi farò dire, finalmente non c'è più il prosecco, ma c'è solo acqua, caffè e neanche il biscottino. È un bel segno dei tempi. È la Marocca. La mano questo, calice, diciamo. Ma chiudiamo con un'osservazione. Visto che qui abbiamo due partecipanti, beati voi, ai concerti del boss, allora, le riflessioni Springsteen applicato al management, esatto, globale, riflessioni e... di un esperto di strategia di gestione di impresa, cioè Carlo Alberto, e di un imprenditore come globale e... Allora, questa è la gente si dimentica sempre che comunque anche lo spettacolo è uno dei big business globali. E quindi che si può partire dal territoriale come ha fatto Springsteen, che era un molto famoso nella sua area, e diventare un artista globale. E applicare la ricerca, l'innovazione, la tradizione e tutte queste cose qua allo spettacolo. Perché poi alla fine... La grande forza di Springsteen è quella che poi è più bravo Carlo Alberto, che fa il professore, quindi è più bravo a spiegare le cose di me, che invece sono abituato a farle. E, la forza di Springsteen è quella di riuscire a inglobare all'interno del suo spettacolo anche il pubblico. Cosa che in Italia peraltro gli riesce bene, perché riesce, diciamo, bene, la verità, siamo un pubblico italiano che gli ha dato grandi soddisfazioni anche tanti anni fa, e lui lo ama, questo si vede anche da come fa il pubblico. Poi diciamo che anche l'accoglienza, come al solito, un gruppo di amici gliel'ha fatta avere in modo adeguata. Però il discorso è che è una macchina, tenete conto che parliamo di circa 220 persone che sono in giro per il mondo a organizzare questo spettacolo, e con dei budget che sono quelli di una medio grande azienda, tanto per intenderci, perché non stiamo parlando di cosettine, cioè il giocattolino di migliaia di euro. Un classico caso di qualcuno che ha reagito alla sostituzione tecnologica, perché sappiamo che la musica è sparita nella sua fisicità e la gente non compra più i CD, per cui il flusso di rendita musicale tradizionale da vendita di track è sparito. In compenso i concerti di Springsteen sono sempre tutti esauriti, ed è una macchina ormai per fare spettacolo. Hai ragione, perfettamente, esempio di management straordinario, qualcuno che conosce perfettamente la sua partitura, lui e la sua band straordinaria, e che fa un concerto invertito, cioè invece di cantare le proprie canzoni dirige a bacchetta 80.000 persone facendole ballare, cantare, muovere come plastilina nelle mani di un grande boss. Questo è straordinario dal mio punto di vista, ogni volta è una sorpresa per me dopo tanti anni che guardiamo i concerti del boss. Beh, ed è un esempio di management straordinario, cioè far gestire il concerto dalla domanda è già 2.0, capisci? Perché ma invece di migliorare più, l'offerta fa lavorare i clienti. Allora, esattamente, lui non che modifica l'offerta. Non solo. Lui lavora, organizza, seleziona, attira, vince la barriera generazionale che come sapete nella musica è fondamentale. Lavorando sulla domanda. Bravissimo, e questa esattamente è la cosa di del management futuro. Del boss. Allora, viva viva Born in USA, che purtroppo sarebbe stata la sigla finale perfetta per questa canzone, ma non ci avevamo pensato prima. E continuate guardando 24, appuntamento con me lunedì mattina alle 8:15. Siamo Alessandro Mina, attenti a noi due. E grazie compare Conti da Belva come sempre. L'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamo